Alzo la testa, adesso che posso. Alzo la testa e non mi riconosco. Molte volte una merda avere 16 anni, quando i tuoi amici, beh, spacciano dei grammi. Indeciso se iniziare o stanno alla larga. Il cash manca e guardi tua mamma. Raccogli il coraggio che ti è rimasto e decidi di fare quel passo che non sai dove ti porterà. Speri soltanto che sia lontano da qua. Ma adesso nella mia mente c'è un processo dove il colpevole è nel mio riflesso. Ma non riesco più a stare fermo. Rivivo i miei problemi sopra ad un quaderno e penso ai ricordi sto in silenzio. Ho perso tutto in quel preciso momento. Sul foglio ho scritto le prime rime, capendo che ero un mondo tutto da scoprire. Intendi di prezzi su mezzetti e detti, e non guardi negli occhi chi lo rispetti. Ammetti di essere cambiato, ma te ne fotti e mandi a fanculo il passato. Capisci che la vita è una puttana quando perdi la persona che più ti amava. Troppi forse, ma troppi perché. Il fatto è che manchi, ma manchi proprio a me. Troppi forse, ma troppi perché. Il fatto è che manchi, ma manchi proprio a me. E se niente per sempre vincerò questa sfida, la batterò e chiuderò questa ferita. Se niente per sempre vincerò questa sfida, la batterò e chiuderò questa ferita. Volano gli schiaffi tutto ad un tratto, e dopo ti fermi e ti ripeti: cosa fa? Rispetto, qua è quello che conta. Rispetto, e lo ripeti un'altra volta. Si inizia perché si sta di merda, e quando torna a casa la comincia la guerra. Lo sai che sembri diventato quello che nessuno si sarebbe aspettato. Se sei perso tutto in un battito di ciglia, per colpa di ricordi ci si attacca una bottiglia. Sfogo la mia rabbia in una matita. Se lo facessi strada avrei il carcere a vita. Ripenso di fisso a quell'immagine. Quel momento sembrava tutto così fragile. Lo so benissimo, tu non mi capisci. Ora disinfetto il tutto con il whisky. Le emozioni, sai, decidono come muoverti. Solo certe volte decidono di fotterti. E i colpi presi sotto la cintura mi hanno insegnato a non avere paura. E lasciami stare, voglio solo pensare. Non t'ho tenuto forte come avrei dovuto fare. Sarà che sono diverso. Ma sarà che ora ti ho perso.